Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City. Da settembre in Italia le vecchie lampadine a incandescenza sono fuori legge ed è qualcosa veramente di epocale, perché l'era della luce elettrica, che ha letteralmente trasformato le città, pensate che cos'erano le città di notte prima della luce elettrica, ebbene sono state trasformate proprio dall'invenzione della lampadina a incandescenza. L'ha inventata Thomas Alva Edison nel 1879 e noi per più di 100 anni abbiamo continuato a utilizzare quella tecnologia, migliorandola un pochettino, ma lasciando intatti i fondamentali. Ora quell'epoca è finita e la lampadina a incandescenza lascia il posto a una serie di tecnologie più evolute. Se pensiamo alle abitazioni, le alternative sono fondamentalmente tre: lampade alogene, che esistono già da tempo, poi ci sono le lampade fluorescenti compatte e i LED. Allora, stasera vogliamo provare a capire quali sono le luci più adatte in casa, nelle varie applicazioni, per avere sia efficienza energetica che una buona qualità dell'illuminazione, questo è molto importante, e avere possibilmente anche dei costi ragionevoli. E ne parliamo con Gianni Drisaldi, che è presidente di AIDI, l'Associazione Italiana di Illuminazione. Buonasera Drisaldi. Buonasera, buonasera a me. Allora, la domanda è questa qui, no? Che luci utilizzare nei vari punti della casa? Si potrebbe rispondere così un po' alla buona dicendo ma mettete i LED dappertutto che non sbagliate, però costerebbe molto e non sempre necessariamente produrrebbe i migliori risultati anche in termini energetici. Ma prima di tutto vorrei lanciare un messaggio di tranquillizzazione, cioè non è vero che sono scomparse le lampadine, ci sono delle lampadine del tutto simili a quelle attualmente in commercio che sono chiamate alogene, ma in realtà di fondo nascondono un'incandescenza. Insomma. Nascondono un'incandescenza, quindi in realtà sono state eliminate dal mercato tutte quelle lampadine che hanno una bassissima efficienza energetica. Questi per ovvi motivi è arrivato il momento di farlo. Poi lei dice giustamente, ci sono vari tipi di soluzioni alternative. Anche qui devo dire che sicuramente le lampadine a LED saranno un po' il futuro, però attenzione, delle lampadine di tecnologia a LED ma con dei risultati abbastanza scadenti, insomma c'è diciamo le cineserie tra virgolette, non è che poi alla fine in termini di efficienza energetica rispondano a chissà quali standard. Intendersi. Anche perché il LED ha una caratteristica fondamentale, che rende quello che rende se trattato in maniera opportuna, quindi alimentato bene, con dissipazione corretta del calore, con le ottiche giuste, eccetera, eccetera. E infatti le fonti di luce a LED ad alta efficienza, quelle vere, costano un bel po' di soldi. Esatto. Ecco, allora veniamo al punto. Se io devo illuminare il salotto, oggi che cosa mi conviene utilizzare? Ma dunque, guardi, bisogna capire gli aspetti funzionali che sono più importanti. Sicuramente la vecchia lampadina e l'attuale lampada alogena ha ancora una colorazione ed ha una capacità di poter dare una condizione di benessere in un ambiente, quale per esempio un salotto, che è ottimale. Magari utilizzare delle lampade fluorescenti compatte che hanno delle dominanti su dei colori non sempre valide, perché magari sì, o troppo bianco o troppo rosato, colori un po' virati. Sotto questo profilo la lampada fluorescente compatta potrebbe non essere la soluzione ideale, anche se comincia a trovarsi qualcosa di interessante. Probabilmente lo possono essere di più i LED, perché con i LED si raggiungono le temperature di colore ideali. Ecco, però per esempio se stiamo a vedere il consumo energetico, che comunque è un elemento importante, per esempio vediamo che i LED di fatto non è che siano superiori, se non in minima parte, alle lampade fluorescenti compatte, che sono le cosiddette lampade risparmio energetico di cui stavamo parlando adesso. Quindi in termini di cura della resa cromatica, i LED oggi sono quelli che hanno il massimo della resa, dopo le incandescenti che però consumano un sacco di energia. Se però non è forte quell'esigenza, a parità di risparmio energetico costano molto meno le fluorescenti, o sbaglio? Insomma, questo per dire... Sì, lei ha centrato il problema, cioè se parliamo di efficienza pura e semplice, il complesso LED... più elettronica, più ottica, eccetera, eccetera. Cioè, alla fine, dal punto di vista del rendimento energetico, non è che abbia un rendimento migliore di quello che è la fluorescente compatta, perlomeno ha dei valori che sono compatibili. Questo ad oggi, probabilmente fra 3, 4, 5 anni le cose saranno diverse. Lei alla fine diceva: io ho un salotto, con che cosa mi conviene illuminarlo? Allora io le dico molto tranquillamente: se lei ha bisogno di una luce che possa essere regolabile e che possa essere anche abbastanza calda, ad oggi la lampada alogena, dal punto di vista delle condizioni di benessere qualitativo dell'illuminazione ottimale, con il LED riesce ad avere qualità del tutto comparabili. Quando parliamo magari di cosiddetti faretti a spot, a quel livello non avrei più dubbi oggi nel scegliere il LED, perché oggi anche i costi sono comparabili. Il LED ha il vantaggio di essere molto più lungo nella sua vita e quindi e di avere la possibilità di sopportare molto meglio le accensioni e spegnimenti. Ecco, senta, parliamo un attimo però delle fluorescenti. Le fluorescenti lei dove le metterebbe? In salotto non le mette? Lo dico subito io, le lampade fluorescenti hanno ancora più problemi ad accendersi e spegnersi frequentemente, tra l'altro hanno tempi lunghi di accensione, quindi nei posti dove la luce si accende per pochi secondi e si spegne, come negli sgabuzzini, non ce la metterebbe una lampada fluorescenza? No, nello sgabuzzino non ce la metterei neanche io. La fluorescente diventa interessante, per esempio, all'interno di casa in una cucina, perché oppure nei tinelli, in quegli ambienti dove la luce si accende magari quando cala il sole e si spenge qua prima di andare a letto, quindi rimane accesa per lungo tempo, lì forse la lampada fluorescente oggi, secondo me, è ancora il miglior compromesso, probabilmente. Compromesso. No? Oppure nei giardini di casa sicuramente se la batte molto bene. Va bene, grazie Drisaldi. Prego, è stato un piacere.